Il folletto cammina sospetto nella foresta mangiando un funghetto. Raccolto in terra quella mattina, madre natura è sempre la prima.